hai visto? Io sono un 146 che sta facendo le prove Walter in macchina, sta provando un buffer piccolino. Sì, io sto facendo questa cosa del box, voglio vedere un pochino come va, se c'ha le regolazioni al fianco, il box e il ritardo, la sensibilità dell'autoparlante anche. Sì, sempre fondo scala, vabbè. Sì, va bene. Sì, prova radio. Prova radio, test 1-2, prova comando vox, prova radio, comando vox, prova comando vox, prova radio, comando vox, attivo, prova radio, comando vox, prova radio, comando vox, prova radio, comando vox, attivo, 1-2, pausa, prova radio comando vox, sensibilità. Prova sensibilità, comando vox. Prova sensibilità, comando vox. Guardando questa cosa qui, perché è proprio un millesimale, una qualcosa che devi fare al millesimo, e quindi poi è anche in base al perché il Vox vuole quasi, perché altrimenti si interrompe la trasmissione, vuole quasi regolato, il Vox è proprio millesimale. E poi lui è? Vedi come fai la pausa a volte, perché sto sempre toccando con cacciavite e sto cercando i tempi di pausa un pochino più lunghi, almeno di... dai, il tanto di respirare, sì. Purtroppo anche io devo respirare, non sono un sub che mi posso permettere di stare 40 minuti col fiato, sempre con lui senza prendere il fiato. Adesso vediamo un pochino, sto sempre regolando. Sì, devi lasciargli almeno un secondo e mezzo, dai. Ho lasciato 3 secondi di delay, altrimenti mi sentirete quando sarò col Vox facendo la pernacchia per non far chiudere la trasmissione, sempre col Vox inserito. Adesso lasciami un attimino, vediamo quanto... Ok, allora, quindi devo aumentarlo un'altra appena, trasmissione non sta mancando, quindi va bene così, dai, riprenditelo. Sì, va bene, sempre se lo tiene, perché a me mi dava fastidio una cosa, il 440, quando era caldo aveva una funzione, quando era all'inizio invece ne aveva un'altra, quindi lo devi un pochino usare, vedere un po' per farlo stabilizzare. La radio è accesa, ma tu intendi la radio o proprio far stabilizzare il comando box? Comando box parlo, comando box, nel senso che non accendi la radio e ti metti col box, magari non va bene perché è fredda lì, mentre invece se lasci 20 minuti, mezz'ora e poi utilizzi il Vox, allora va bene. Sì, stavamo parlando, questa radio qua è accesa alle 5, credo che sia abbastanza calda, non credo che sia una cosa accesa 10 minuti fa, e l'abbiamo provata anche poco fa, quindi credo che vada bene. Sì, no, ecco, io per farti un esempio, se tu domani mattina ti alzi, accendi la radio e vai direttamente in box, magari non è perfetto come ce l'hai ora, che adesso la radio è calda. No, vabbè, ma non è una cosa che userei sempre, è una cosa di che se devo fare qualche cosa, ne so, qualche saldatura, devo fare qualcosa che mi servono le mani libere, sì, posso mettere il box almeno, diciamo, adesso ho le mani libere, dai, e se devo fare qualcosa so che il Vox è regolato e lo posso utilizzare, non è sempre che lo utilizzerò, però se mi serve lo uso, invece di stare ad attaccare i TTT e queste cose qua, se devo fare qualche lavoretto, devo guardare qualche messaggio nel telefono, c'è qualcosa da fare in radio, posso comunicare col Vox, vedi che non sta mollando. Sì. Adesso lo fa con Walter, gli ho detto che mi serve un tarnet e devo andare a prenderlo. Bene. Piglialo che sì, lo colleghiamo, lo facciamo subito per... No, lo voglio fare... Ah, vabbè, non lo so, no, vediamo. Per intestarlo al... praticamente, ma che macchina stai usando? È del più 4. Ah, non sono amplificato in mezzo, però molto bene. Lo so, non l'ho fatto io, ma lo so. Sì, già vanno bene. Addirittura col tarnet dovrebbe andare anche meglio. Allora, mi sto rendendo conto che parlando a 30 cm molla, mentre se mi metto a 20 cm non perde niente. Ma io te l'ho detto, devi rispettare. più, almeno so che è efficiente e funziona, e dovendo qui servire posso anche utilizzarlo. Certo. Prova a chiedergli quella cosa là, se ti viene bene. Credo di aver capito cosa stai dicendo, ma quando va? Così in radio no? No, senza impegno, la prima occasione che tra un anno, due anni, quando sarà, non ti preoccupare, viviamo lo stesso. Ma guarda cosa stai dicendo tu. Bravo, bravissimo. E così come sono indicato? Non lo so, tu avrai i tuoi problemi, i tuoi pensieri, le tue ragioni, le tue opinioni, tutti i tuoi impegni. Non so se ti eri dimenticato. No, anche i miei perché. La memoria su queste cose già ce l'ho. Hai sempre la memoria buona? Hello. Dallo chi? Hello. Cancellando tante di quelle foto da lì, mamma mia, che foto lavori che non me ne scotte niente, che sono stati fatti, però ho tanta pazienza. Poi c'è il mio collega di lavoro, quando fa la foto ne fa 3, 4, 5, tutte una dietro l'altra, alla stessa cosa, ma perché? Basta una, è fatta bene. Esatto, ne basta una, è fatta bene. Vabbè, quelli sono per descriverti i particolari, sì. Ma che particolari, di fango? Sì, quanto fango più o meno c'è in quel pezzo, in quel metro cubo, un metro per un metro, e quanto fango puoi sollevare, ma credo abbastanza. Io l'altra volta ho detto, ma perché cacchio fai queste foto di cacchio? Perché sì, cosa? Guarda, questa l'ho fatta io, questa è stata su, quale è migliore? È quella, se tu ti metti in un'angolazione differente e fai la fotografia, mi appare che vedi i tubi, almeno sono dritti, e fai una bella presentazione, risulta anche un bel lavoro fatto. E tu lo fai la cacca di cane, e i tubi si vedono una serpentina ed è feo. Ne basta una foto, è fatta bene, ti anguli appena, non è che stai facendo il sentiero. Facendo una foto di lavoro, quindi devi parlarli, invece di mandarli resi, quindi se me li mandi lui e fate bene. è vero. Aspetta che rompo le scatole là, vedere se hanno preso le pizze. Vai, io mi preparo qualcosina. Ma ho idea di farmi una cenatina con la peretta fusa, mettermi un paio di pezzi di lardo e farmi salire un po' il colesterolo. Un attimino che ho un languore. Male l'idea.